Polish Bit di Giulia Crivelli. Safe and sound. Dojo, keeping your smart home safe and sound, the zen of cybersecurity. Il sito dell'agenzia Bloomberg titolava così un approfondimento su una startup israeliana che si chiama appunto Dojo. Dojo tiene la vostra casa intelligente in tutta sicurezza, safe and sound, lo zen della cybersicurezza. L'espressione che ci interessa è safe and sound, letteralmente al sicuro e solida. Nello specifico Dojo è un apparecchio che assomiglia a un diffusore di aromi o a una levigatissima pietra di fiume, da cui forse il titolo di Bloomberg con il riferimento alla filosofia zen, pensato per prevenire o sventare qualsiasi attacco informatico agli apparecchi elettronici delle nostre smart homes, cioè le case intelligenti, sempre più connesse e dipendenti da internet. Ma safe and sound è un'espressione usata in molti altri contesti. Il 31 di dicembre tanti quotidiani e siti americani auguravano Enjoy a safe and sound New Year's Eve, dove New Year's Eve significa letteralmente la vigilia del nuovo anno, così come Christmas Eve è la vigilia di Natale, cioè il 24 dicembre. Un quotidiano canadese invece nei giorni scorsi scriveva Snowboarders found safe and sound after 2-hour search. Dopo una ricerca durata 2 ore sono stati trovati sani e salvi gli snowboarders dati per dispersi. USA Today raccontava un'altra vicenda di cronaca a lieto fine. 100 rescue dogs involved in crash, now safe and sound. 100 cani salvati e poi coinvolti in un incidente, ora al sicuro. I cani, vittime di abusi o abbandoni, erano infatti diretti a un centro di smistamento quando il camion sul quale viaggiavano, non molto fortunati, ha avuto un incidente. Alcuni di loro sono scappati impauriti, ma nessuno si è fatto male e ora, sani e salvi, safe and sound, saranno affidati alle loro nuove famiglie. A proposito di strade, possiamo dire The road was icy, but our driver got us home safe and sound. La strada era ghiacciata, ma l'autista ci ha riportati a casa sani e salvi. Safe and sound è infine il titolo di una canzone del 2011 dei Capital Cities, eccone alcuni versi. I could lift you up, I could show you what you wanna see, and take you where you wanna be. You could be my luck, even if the sky is falling down, I know that we'll be safe and sound. Potrei sollevarti, potrei farti vedere quello che vuoi vedere, potrei portarti dove vuoi essere, potresti essere la mia fortuna, persino se il cielo dovesse cadere, so che saremmo sani e salvi.